Sta succedendo, abbiamo visto, non c'è neve perché ci sono state poche perturbazioni a causa della persistenza dell'alta pressione, perché la temperatura sta aumentando sempre di più e quindi si stanno verificando quelle condizioni che forse noi ci attendevamo nel futuro. Invece siamo già arrivati al punto nel quale i nostri inverni si sono completamente trasformati e quindi anche le attività turistiche che erano pianificate su quel vecchio clima adesso ovviamente faticano ad adattarsi, perché siamo già arrivati a un punto nel quale non pensavamo di arrivare. Quindi quello che stiamo vivendo non è magari un anno particolarmente caldo, un'eccezione, ma tu dici siamo già arrivati a quel punto. In termini strettamente scientifici è chiaro, adesso noi stiamo valutando la situazione attuale, è frutto di una meteorologia, in questo caso, quindi del tempo che fa in questi giorni, che è stato appunto particolarmente secco e caldo a causa della persistenza di quest'alta pressione. Ma questo non è un caso isolato, veniamo da anni dove è successo non lo stesso, ma un po' meno peggio, però anche l'anno scorso, ricordiamo a Capodanno, quindi 2022, sul Cimone avevamo registrato 13 gradi, c'era un pochino più di neve, però era ugualmente un caldo assolutamente fuori dalla norma. All'inizio dell'anno scorso il periodo veramente caldo è durato una o due settimane. Qua stiamo vivendo una situazione di anomalia incredibile che è iniziata a metà dicembre, quindi parliamo di oltre un mese di temperature prossime ai record. E ricordiamo anche che nel 2022 di questi periodi ce ne sono stati 5 in momenti separati dell'anno, quindi è come se le temperature del 2022, invece di somigliare alla media climatologica, invece si sono portate, come dire, sui massimi mai registrati per molti periodi dell'anno. Quindi si può interpretare come una sorta di accelerazione del cambiamento climatico, per diversi motivi ancora non del tutto chiari, però la situazione è preoccupante dal punto di vista proprio scientifico, anche per l'acqua, insomma per tutta una serie di effetti. Infatti su questo ti volevo fare una domanda: veniamo da un anno che è stato particolarmente siccitoso, l'assenza di neve aggraverà il problema? Sicuramente, perché sappiamo che la neve garantisce una ricarica degli acquiferi montani e quindi delle sorgenti e quindi a cascata di tutta l'acqua che poi arriva in pianura. Cosa è diversa se invece di nevicare, per esempio, piove, o soprattutto se lo fa molto intensamente, quell'acqua che viene giù con questi rovesci forti ovviamente va presto al mare, quindi non ha una capacità di ricarica delle sorgenti, dei serbatoi, molto inferiore. Quindi la neve è molto importante anche dal punto di vista delle riserve acquifere. Venendo appunto da un anno molto secco, io mi chiedo in questo 2023 se il trend, come sembra, perché le previsioni indicano una primavera più calda della media, quindi sembra che questo trend debba continuare, mi chiedo un po' come potremo gestire l'estate, che ovviamente sarà calda. Veniamo allora al turismo, ci sono luoghi del nostro Appennino come Corno alle Scale, il Cimone, eccetera, che hanno impostato la loro economia ovviamente su un'economia invernale con gli impianti di risalita, gli sci, eccetera. Nei giorni scorsi l'assenza di neve, come dicevamo, ha sollevato anche la discussione politica. Il presidente della regione Bonaccini ha proposto di dotarsi di questi cannoni high tech, ma questa è la strada da seguire? Se uno ha ben presente la situazione di cui abbiamo appena parlato, la situazione climatica, qual è la situazione in atto, quali sono le sue prospettive future, sia nel breve termine, qui parliamo, quando dico breve termine, nei prossimi mesi, e sia nel lungo termine, cioè nei prossimi 10 anni o 20 anni, mi sembra evidente che sarà molto difficile mantenere in piedi un'economia basata sullo sci da discesa, cioè sugli impianti, perché per le regioni che abbiamo detto. Oppure magari si può fare in un paio di mesi all'anno, però non posso dire nulla sulla gestione economica, però mi sembra che costruire degli impianti per poi usarli solo pochi mesi all'anno, non lo so quanto possa convenire. Invece chiaramente anche nel tempo del cambiamento climatico, dove le stagioni sono un po' ribaltate, dove spesso ci sono temperature altissime, si offrono anche altre possibilità. Faccio un esempio: io, come essendo anche appassionato di montagna, a Befana sono andato per un giro in Appennino, c'erano temperature altissime, bellissima giornata, era pieno di escursionisti a piedi che in un certo senso si godevano l'Appennino senza neve, come se fosse quasi estate. Quindi la gente va comunque in montagna, secondo me. Il problema problema è capire come gestire questo clima, che appunto una delle caratteristiche del cambiamento climatico è l'estrema variabilità e l'aumento degli eventi estremi, estremi caldi, estremi di pioggia, estremi anche freddi talvolta, però questa variabilità è difficile da gestire anche dal punto di vista dell'attività turistica, perché appunto in alcuni periodi magari viene la forte nevicata, poi dopo 20 giorni non c'è più neve, quindi è complicato, non dico mica che sia facile. No, la risposta tecnologica personalmente secondo me non è sufficiente. Bisogna comunque pensare a una forma di riconversione, insomma, di questa economia. Sì.